Vabbè, lascio lì quello che aspetta che arriva. Vieni, vuoi fare una foto? Di com'è ormai. In casa se vuoi. Se vuoi, sono venuti a fare qualcosa. Lo stavo stirando, quindi c'è tutto un casotto in mezzo. Se vuoi ti devi sbrigare, che loro non hanno tempo da perdere. Se no fate voi come volete. Tutta presa. Come mai queste foto? Facciamo l'archivio delle case di cura. Aspetta che è dentro, che non so, se no ti riprende troppo. Riprendo proprio tutte le foto dei miei nipoti che sono strapiene. Allora, finito adesso. Che ha finito allora? Simona? Buona, non l'ho vista, l'ho sentita solo per Sì, telefono. appunto, perché non era oggi la sua giornata. Cioè di andare dal dentista. No, giovedì. Ah, giovedì.